Now boarding. Now boarding. Welcome to the radio connection. Che appetito insieme a te. At the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te. At the drive. Ho fatto le pazzie. No, scusate. Buonasera a tutti, io sono Riccardo, questo è Nowboarding, Radio Sonora 102-200. E eccoci di nuovo qui, arriviamo da Cambridge. Sì, ricordiamo ovviamente che, dai pappardella, che questo è il programma dedicato agli italiani residenti all'estero per lavoro, studio o in passato anche abbiamo avuto delle storie d'amore. Qui con me ho Checco, ciao Checco. Ehi, ciao, come va? Molto bene, grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti e niente, cosa diciamo? Direi che potremmo anche presentare la prima canzoncina. Subito così, senza perdere tempo. No, vabbè, se vuoi diciamo qualcos'altro. Vuoi raccontarmi cosa hai mangiato? Sì, mi vedi appesantito, quindi puoi intuire. Sì, intuire. Sempre più grosso. va bene, allora direi che ci ascoltiamo gli ONAP, si legge così. Ma Matt, si scrive ONAR. Si scrive ONAR, con me Thomas Zeiss. Thank you. sì, che come sempre la scelta delle tracce è grandiosa. Anche con questa, dopo una giornata di lavoro, mi stavi per far addormentare. Guarda, io vorrei sfidarti a trovare canzoni per la puntata su... su... Atene. Atene, wow. Ciao, ciao Atene. Ciao Atene. Che abbiamo con noi questa sera? Stasera abbiamo con noi una vecchia conoscenza, ovvero la puntata sull'Andalusia, quando ancora tu eri solo un ascoltatore, anzi, di un finto ascoltatore, perché dico che ascoltavo ma in realtà no. Aiaiai, abbiamo preso sulla fiducia. Va bene, no, in realtà abbiamo la fiducia. Qui con noi Greta, che è già stata appunto ospite in Onboarding, raccontandoci un po' di Jaén dall'Andalusia. Tra l'altro, se volete ritrovare la puntata sul vecchio blog Snowboarding RSD, anziché non LSD, è no, un'altra cosa, RSD. Okay. Insomma, quella puntata ne vedemmo di belle, vero Greta? Ciao! Ciao! Come stai? Bene, bene, tutto ok. Bentornata. Noi bene, bene direi. Keiko, stai bene? Sì, Keiko sta bene. Tutto sì. Bene. Insomma, dall'Andalusia finisci in Grecia quest'anno? Sì, sempre al sud e sempre al caldo alla fine. Ah, ecco qual era la... C'è il trucco. Infatti. Lei, Riccardo, non sa nulla del terzo grado invece. Non ti sei ascoltato le puntate che abbiamo già fatto? No. Uno, quindi due, tre. Saremo ancora più cattivi, quindi. Va bene, cominciamo allora. Ti facciamo il terzo grado, ovviamente, senza divagare, ok? Okay. Bene, età? 22 ancora, 23 ancora, scusa. E qua tira giù, prova a giocare, no, sugli anni. No, farne 24 25 dicembre, mi confondo. Sei nata il giorno di Natale? Yes. È Gesù lei in realtà. Per quello va in Grecia, poi di Cali. Di dove sei? Io studio Gorizia, sono originaria di San Daniele del Friuli, provincia di Udine. Prosciutto! Si sentiva che era di Udine, eh? No, alle Udine, alle Udine! Bene, a sto punto da dove ci stai chiamando? Dall'Egrena, vicino... Dai, diciamo 40 minuti da Atene, seguiti come un greco. Vicino a Lavrio, che è la città più carina nei dintorni. Ho capito, bene. E ma Checo, se vuoi continuare te, perché in Grecia che ci fai quest'anno? In Grecia sto facendo uno stage che inizialmente avrei dovuto fare di 3 mesi, poi l'ho ridotto a 2 per andare a Cipro più avanti a fare ricerca tesi per una quindicina di giorni. Sì, la ricerca va a fare a Cipro, questa spiaggia e... d'inverno a Cipro, no. Numero uno questa, che quando me le trovi? Guarda, sapessi. Vabbè, ma quindi, cioè, sei lì da quanto precisamente? Sono arrivata il 30 settembre, ho iniziato lo stage il 2 di ottobre, mi pare, lunedì. E quindi vedete? Ormai quasi 2 mesi, sì, che sono qua. Oh, ma scusa, ma prima che cominciava della Spagna, perché hai scelto la Grecia? Ho scelto la Grecia perché volevo fare uno stage all'estero, ma ho dato curriculum in giro a chiunque e sono i primi che mi hanno risposto e mi hanno presa. Quindi ci facciamo due contro. Lei, allora, è italiana, ha fatto l'Erasmus in Spagna, adesso va in Grecia. Sceglierti un posto in cui si sta bene, no? No, eh? Sono paese in crisi, sono italiana, certamente. Diciamo che lei, siccome è Gesù, va là per salvare il mondo, capisci? Nata il 25 dicembre. Infatti. Sono venuto a salvarli dalla crisi, infatti da quando sono io è cambiato il governo. Vedi. Guarda, per le prossime esperienze ti consiglierai magari un master in Portogallo e poi un altro stage in Irlanda, così l'hai completati tutti. Sì, potrei andare in Nord Africa. Anche. Vorrei chiederti, io allora... La puntata su di te dell'altra volta, in realtà, io non l'ho ascoltata, devo far finta di averla ascoltata, no? Okay. Mi hanno detto che hai portato Danza Kuduro in Italia. Spiegami. Cioè, tu te l'ascoltavi là, no? Ma io sono arrivata a Jaén a inizio settembre e già spopolava in tutte le discoteche. Io pensavo fosse una semplice canzone spagnola che andasse di moda in quelle zone. Poi quando sono tornata in Italia, dopo che hai capito di aver lanciato un il prezzo mi hanno sputanata alla puntata precedente perché ho fatto mettere di sacco duro. Appena tornata in Italia l'ho sentita in un bar e mi sono stupita tantissimo perché mettono un sacco duro poi. Ma scusa, ma in Grecia hai già trovato una hit all'altezza di Danza Kuduro o no? Ma no, in Grecia, cioè sono tutte anche qua. Sono tutte però... anche lì? Però... Lei potrebbe però avere... Però non ho trovato la Danza Kuduro greca. Lei potrebbe avere la fortuna di beccarsi Danza Kuduro nel 2010 in Spagna, 2011 in Italia, nel 2012 in Grecia. Sembra proprio una miracolata. L'estate si era andata sicuramente. Infatti... Ascolta, io ho una curiosità perché diversi mi riportano questa notizia. È vero che in Grecia non si può buttare la carta igienica nel water? Sì, sai che volevo dirvelo anch'io, è vero. Ma perché? Perché le fognature ovviamente sono fatte malissimo. Cioè, e dove la butti, scusami, eh? Nei cestini. Che olè! Merda. Che merda, si può dire, che merda. Sì, sì, no, ti obbligano a farlo, però... In tutti i bar o anche qui nella guest house c'è... Cioè, ma cosa, c'è una telecamera su ogni bar che vede dove butti il tutto? No, perché rischia di... Come si dice? Di intasare? Di intasarsi, sì. Bene. No? Ascolta... Potremmo finire qua. Grazie di tutto. È stato bellissimo. Ascolta, Checco, metti Bugo, va? Sì, mettiamo quella traccia che ci farà capire di che parliamo oggi. Bugo con... C'è crisi. Eccoci qua a Now Boarding, puntata su Atene e sulla Grecia. Allora Greta, tu appunto hai detto vivi insomma a Legrena, un po' fuori Atene, però ci avrei passato un bel po' di tempo ad Atene, immagino, no? Sì, sono stata diverse volte, fortunatamente. Come l'hai trovata a primo impatto, diciamo? A primo impatto non mi è piaciuta per niente, l'ho odiata veramente, mi ha colpito in maniera molto negativa, perché è una città lasciata, il centro storico soprattutto è lasciato a se stesso, è abbandonato, è sporco, è poco sicuro. Però col tempo ho cominciato a capirla, ad apprezzarla. Adesso un pezzo del mio cuore devo dire che lo lascio lì. Anche con i suoi lati negativi. Abbandonato in che senso? Cioè che non c'è gente proprio? Nel senso che la gente c'è ma non si cura della città? No, non è, cioè c'è molta gente nel centro. Però cioè, basta fare un giro nel centro storico per vedere quanto i palazzi, i condomini siano quasi tutti, l'80% credo, abbandonati, non abitati. Questo mi hanno spiegato poi parlando con diversi proprietari di alberghi, eccetera, che è una situazione che va avanti dagli ultimi 20-15 anni. Praticamente i proprietari dei palazzi nel centro, che sono quasi tutti gli stessi riguardo per ogni via, preferiscono affittare il negozio che c'è al piano terra piuttosto che affittare gli appartamenti per avere meno rogne, meno casini e quant'altro. Cosa succede? Succede che i palazzi sono abbandonati a se stessi. Inoltre, essendo c'è stata una forte immigrazione soprattutto dai Balcani e della Turchia, questi posti sono magari anche occupati da queste persone che hanno creato dei mini quartieri nel centro storico, tant'è che i greci, piuttosto che lottare per affinché la propria città riprenda vita, hanno preferito rifugiarsi nelle periferie. Ma quindi occupati anche illegalmente? Come? Occupati illegalmente da queste persone che non hanno un lavoro, oppure non hanno soldi per potersi mantenere, oppure dai drogati, perché c'è anche il potere dei drogati. Un quartiere intero? Due quartieri in realtà, quartieri e zone di limitrofe. Cioè, che zone sono? Dico subito. Sì, infatti mi informo. Omonia e Vittoria, sono i quartieri più brutti di Atene, sconsigliano di andarci ovviamente durante il giorno, però durante il giorno non sono male, io ci sono stata. Consigliano di andarci durante la notte, perché ci trova di più. Non è male, perché comunque ci sono degli uffici, c'è gente che lavora. Però la sera è invisibile, ci sono tutti gli aeronomi della città. Non esistono servizi sociali in questo paese, e quindi la gente è lasciata abbandonata a se stessa. Quindi anche casi del genere, diciamo, non hanno nessuna forma di recupero, di aiuto, insomma, no? No, anche perché li lasciano lì, nessuno fa niente, la gente si allontana dal quartiere, gli hotel a 5 stelle che c'erano in quella zona sono stati chiusi, sono stati spostati, quindi nulla viene fatto. Scusa, ma questa situazione te l'aspettavi? Cioè, no. Cosa hai detto? Scusa, vado in Grecia a vedermi questo squallore. No. Te l'aspettavi o no? No, così no. Anche perché comunque Atene è una capitale, non ho mai visto. Quello dico io, no? Perché, cioè, obiettivamente vai in una capitale e pensi di trovare il figo, diciamo, del paese, no? Vai, vado a Madrid, vado a Londra, Atene zero, insomma. No, dai, zero no. Dai, ma cioè, non avevi già parlato con qualcuno prima di andare là? Cioè, sei andata là allo sbaraglio e hai detto, cavolo, vado a Atene, e te l'aspettavi un po', però non a questo punto, quindi o ti ho sbagliato. Di Atene non mi ricordo, ero già stata quando ero più piccola. Ah, ma però, tipo in gita o in vacanza, roba così, no? Io ho fatto il Partenone, l'Acropoli, sì, e come quando ti portano a Venezia, che viene a vedere cose, questo San Marco, Rialto, e il Calatrava, adesso la sua attrazione, sì. Fenomeno di architettura. E no. Vabbè, ma la gente non dice niente là, cioè tutti in silenzio, tutti che fanno quel cazzo che vogliono. Adesso, come vedete anche dai telegiornali, cioè, per esempio adesso che parlano della crisi, sì, ovviamente c'è crisi, una crisi mondiale che tocca anche paesi come la Grecia, come l'Italia, sì. Però se avessero avuto delle istituzioni più forti, negli anni precedenti avessero avuto un'economia forte, sì, non sarebbe ridotto a questo punto. Sì, logicamente la mia non voleva essere una domanda retorica, perché come rispondessi alla crisi e tutto. Volevo sapere proprio, perché tanto la gente quando ci ascolta cosa dice, questo gli fa già la domanda, che la gente non si lamenta. Oggi si stanno lamentando, stanno facendo un casino, ma cioè, non c'è una forma di ribellione, anche se vogliamo chiamarla sotterranea, cioè che inizia qualcuno, che ne so, inizia a dire vabbè, aspetta che possiamo provare a investire quel poco che abbiamo per sistemarci, o è proprio tutto fermo, zero, come ci fanno vedere? Sì, no, ci stiamo arrivando, perché comunque essendo una situazione che va avanti da anni, la gente, io credo anche che finché non ti tocca personalmente, non lotti. Adesso sono tutti con, tra virgolette, a sedere per terra, stanno cominciando a reagire, però la maggior parte reagisce in maniera violenta, non in maniera costruttiva. Quello dico. La maggior parte, non voglio fare generalizzazioni. Quello che passa è che agiscono in maniera violenta, ed è anche vero, perché ho visto quello che è successo e anche i segni sono molto forti nella città. Però devo dire che non vedo una... dovrebbe cambiare un po' la mentalità. Sì, non vedi una cosa costruttiva, ecco, vedi una cosa giusto per far casino. In che senso dovrebbe cambiare la mentalità? Se mi ascolta qualche greco mi ammazza. Tranquilla, non arriviamo in Grecia, a parte per internet, però vabbè. No, ma qualche greco per l'Italia a studiare in Erasmus, vabbè. Ascolta, c'è un altro. No, sono molto chiusi, molto indietro. Mi sembra di vedere un'Italia di... Ho capito. Già in Italia siamo indietro, siamo abbastanza chiusi con l'Italia. Non è vero! No. E tra l'altro, no? Cioè, anche lì... magari viene tra virgolette invaso da questi immigrati, non c'è una politica di immigrazione perché sono lasciati se stessi anche loro, quartieri che crollano, nessuno che protesta, quartieri con i drogati, la gente cosa fa? Invece di lottare si trasferisce o nelle periferie che sono diventate le zone bene, o addirittura quelli più ricchi nelle isole o nelle zone a sud vicino a dove vivo io. Vedi nella zona per ricchi lei? Mica si scherza qui, facciamo le finte stagiste, andiamo lì con il grano, facciamo una bella vita. Che grano. No, a parte gli scherzi, quindi una lotta un po' alla sopravvivenza anche nel nome dell'indifferenza, cioè chi può si sposta, si magari in zone più tranquille o comunque più ricche, e chi non può rimane lì a bucarsi magari. Chi rimane lì non rimane in centro storico. Ho capito. Tra l'altro quei due quartieri che si dicevi prima, anche ad esempio Omonia, sono molto centrali, no? O mi sbaglio? Sì, è a 10-15 minuti a piedi da Sintagma. Ah, ok. Cioè quindi veramente questa realtà è proprio nel cuore, insomma, della... Sì. Tanto per dare un riferimento, cioè dal... diciamo dall'Acropoli, siamo lì, no? Dall'Acropoli? Guarda, 15 minuti dal Parlamento. Ecco, quindi sì, proprio questa realtà sotto gli occhi di tutti, insomma. Infatti ho trovato per esempio anche in Piazza Sintagma che raccoglievano firme del gruppo No alla droga, quelle cose lì. Sì, ma appunto, ma curiosità, ma com'è che comunichi con loro? Cioè, il greco lo parli o masticano un po' l'inglese? Era... basta. No, dai, parlano un po' l'inglese o no? La maggior parte dei greci parla inglese, magari. Quindi ce la fai, insomma, a muoverti, a girarti, a sentire. No, parlano praticamente quasi tutti. Sì, che non firmi per cose che non vuoi, cioè questo è... No, vabbè, no. Dimmi. Essendo comunque indietro come mentalità, devo dire che però l'inglese lo parlano quasi tutti, questo mi ha stupito. Sarà perché... Non è che siamo noi gli unici italiani, gli unici che non sappiamo un'altra lingua perfettamente, tutti. Gli italiani e gli spagnoli. Anche gli spagnoli, un po'. E anche gli spagnoli. Un po' fatica. Allora, solamente spagnoli, tipo. E sì, che tra l'altro, che sembra magari una banalità, non lo so, in altre parti d'Europa non è così. Dove c'è un alfabeto diverso da quello dal nostro, diciamo, non è così semplice anche muoversi. È lì abbastanza diffuso l'alfabeto greco, comunque. Sì. Quindi, dici una stupidata, tu hai in mente il nome di una via, però non la sai leggere sul, che ne so, sul cartello, no? Le vie sono scritte sia in alfabeto greco che in alfabeto... Ah, ok, almeno questo, allora dai, ci... No, ho imparato comunque a leggere, magari non so che cosa leggo, però riesco a leggerlo. Riesci ad associarlo, no? Qualche parola l'ho imparato, ovviamente, ascoltando, sentendo parlare, però... No, comunque le segnalazioni sono in entrambi gli alfabeti. Ho capito. A proposito di greci che parlano l'inglese, andiamo a sentirci Matisse, gruppo alternative rock di Atene, che però fa canzoni in inglese. Infatti questa è She Smiles. A dopo, Greta. Ciao, Greta. Ah. Allora, dicevamo che come manifestazioni ce n'è, c'è un popolo, la popolazione è in subbuglio, ma quindi alle manifestazioni, Greta, chi ci va? Vanno sempre i soliti, tutta la popolazione com'è? Dai, tutti, no, chi sta bene... sta bene, se ne frega. Sì. Ma anche perché tanti mi dicono, ma non mi sembra un paese in crisi, perché se esci il sabato sera vai nelle zone tipo Gazi o Psiri, dove sono le zone dei locali, dei pub, comunque sono pieni di gente. E vedi che i ristoranti sono pieni anche là, eh? Sì. Come qui da noi, sì, Qua tutti senza Sky, però sì, tutti... preso. Ma ascoltami, ma hai partecipato a qualche manifestazione? Sei andato a fare un po' di casino anche tu? Tanto là cosa ti fanno? Mica come in Italia che ti blindano, no? No, mi sono trovata in mezzo a una manifestazione perché non sapevo che c'era. Come hai reagito? Cosa hai fatto? Noi è venuto qui Dario, tra l'altro, siamo andati a fare un giro, l'ho portato a Monastiraki, sì. Poi abbiamo cambiato strada e mi sono trovata per sbaglio in Piazza Omonia, tra l'altro. Famosa piazza dei drogati. E ho cominciato a sentire tutto questo casino, mi giro, perché ho già visto che c'era troppa polizia in giro, sì. E allora ho visto tutto questo corteo, era del KKE, che è il Partito Comunista Greco, ed era un corteo abbastanza lungo, parlavano in greco, urlavano qualcosa, non capivo, però mi sono un po' spaventata, devo dire, perché... Ma era un corteo violento, pacifico? No, erano pacifici, però comunque... Allora, posso immaginare quello che dicevano, sicuramente erano contro la fiducia, ovviamente, dicevano qualcosa contro il governo e contro i tagli che volevano fare. Il governo precedente, no? Anziani, bambini, donne, di tutti i tipi, giovani. Però quello che mi ha spaventato era che la maggior parte aveva le bandiere, però verso fine corteo c'erano alcuni ragazzi che sul braccio sinistro avevano un casco e sull'altro braccio avevano un bastone, però abbastanza grosso, su cui era volta la bandiera. Allora io ho detto, o questi hanno intenzioni bellicose, oppure dicono, nel caso che succeda qualcosa, piuttosto che prenderle. Esatto. Quindi sì, ho detto, ci siamo un po' uniti, ho fatto qualche foto, dei video, poi ho detto, beh, io botte per un paese che non è il mio, preferisco non prenderle. Quindi ti sei spostata. Abbiamo continuato a fare un giro sempre in quella zona, siamo tornati verso Sintagma, sarà passata un'oretta, ormai tutto il corteo era radunato nella piazza perché aspettavano che venisse appunto data o meno la fiducia. Noi siamo rimasti lì, non so, mezz'oretta, era veramente pieno di polizia, la polizia praticamente circondava tutta la piazza, tutte le vie che collegavano a piazza Sintagma erano coperte da polizia, da camionette e tutto, in antisommossa. E anche la metro non si fermava né a Sintagma né a Monastiraki, che l'ha fermata prima. Sintagma è la piazza vicina al Parlamento, no? Parlamento, sì. Che è stato in questi giorni sempre il centro delle proteste, o sbaglio? Sì, certo. Nel resto della città, invece, com'è? Più tranquillo, più... Beh, ma questo mi ha fatto un lungo corteo per tutta la città. Ah, ho capito. Si sono radunati tutti ovviamente in piazza Sintagma perché... nel Parlamento poi in serata, che poi la fiducia è stata data appena l'una di notte, si sono fermati lì. Io tra l'altro ho chiesto a un poliziotto, ma com'è la situazione, è tranquillo, perché io avevo l'albergo lì vicino, fino a quanto durerà? E loro, magari fino a domani mattina anche, no, ok, benissimo. No, però sono tutti tranquilli, quel giorno lì non è successo niente. No, perché però... sembra un po', almeno, no, Ricky qua, vedendo anche... spesso servizio al telegiornale, abbiamo un po' l'idea di manifestazioni parecchio violente con diversi scontri, no? Lì sì, cioè a noi almeno passano questo, ci fanno vedere che sono tutti che se le danno, fumogeni, e sembra di essere allo stadio, un po' come quando fanno vedere le manifestazioni da noi, come è successo a Roma da noi il 15 ottobre. Certo, no. Sì, cioè, è successo anche qui, come per esempio a Roma il 15 ottobre, quanti saranno stati? 200-300 Black Bloc e gli altri non so. Gli altri 200.000 erano buoni, però i 300 Black Bloc hanno rotto le palle, come fanno lì in Grecia. In televisione di chi hanno parlato, di quelli che hanno fatto questo. Logico. Certo. È praticamente la stessa cosa, ovviamente. Sì. Però sì, i segni li vedi ancora, perché le vetrine rotte vicino a Piazza Sintagma ci sono. Hanno dato fuoco come si chiama, alla cabina dove stanno le guardie vicino al Parlamento, hanno tutto fuoco, ancora adesso è tutta nera. Hanno occupato il Politecnico vicino al Museo Archeologico ed è ancora pieno di scritte, mantenuto veramente uno schifo. Poi nella via successiva è piena di drogati. Sì, è mantenuto, Certo. E abbiamo visto anche di manifestazioni siriane ad Atene, sì, no? Lei eri già lì, no? Sì. Quella è stata il giorno dopo la manifestazione per la fiducia. No, quello che è bello di Atene è che comunque è una città viva. Io non mi sarei mai aspettato in Italia, per esempio, di vedere una manifestazione siriana guardata comunque bene dai cittadini. Invece è stato veramente bello, mi sono emozionata. Perché ovviamente tutti immagino adesso sappiano cosa succedendo in Siria, che coloro che manifestano contro il governo vengono barbaramente uccisi o comunque torturati. E quindi durante questa giornata è arrivato un gruppo di, non so, 200-300 siriani, la comunità siriana ad Atene, con bandiere, palloncini e anche le foto e documenti su quello che sta accadendo. Si sono messi a ballare, a cantare, a gridare libertà, fuori della dittatura, cose del genere. Parlavano in arabo, quindi sono fatta tradurre, però è stato molto bello e la gente non aveva paura. Secondo me in Italia avrebbero avuto molta paura. Quindi una città che ancora magari il suo ruolo forte, chiave nel Mediterraneo, tra l'altro prima abbiamo parlato di Atene, cioè solo nel 2004 si facevano le Olimpiadi ad Atene, cioè sì, in 7 anni una caduta pazzesca. Sì, quindi insomma nonostante la crisi ancora forse questo ruolo e questa mentalità, no? Sì, sì, ma devi vedere come sono ridotti dove hanno fatto gli impianti, dove hanno fatto le Olimpiadi. Cioè abbandonati? Sì. Come comunque anche non è tanto lontano dagli altri paesi europei, perché a Siviglia, dove c'è stata l'Expo nel 92, siamo stati noi, no, non so se era 92-94, comunque noi siamo stati a visitare, tutto abbandonato se stesso. È praticamente una città morta. Quello c'è delle zone olimpiche o dei vari Expo, è un bel problema. Poi speriamo che Milano sappia far di meglio nel 2015. Sono sicura, con tutta la andrangheta che ci sarà dietro. Ma cosa c'è a Milano? Expo 2015. Ah, no, non fanno tanta pubblicità. Hanno detto che lo faranno, però in realtà non vabbè, si sa se ce la faranno. Cosa dici? Intanto, allora ragazzi, io direi a tutti che adesso ci ascoltiamo un gruppo che piace un sacco a Checco, che ha adesivi, magliette, spell. Sì, ormai è persona sponsor. Ci ascoltiamo Le luci della centrale elettrica con, parlando di manifestazioni, che è tristissima questa, Lacrimogeni. Negli appartamenti subaffittati, sulla scia dei carri armati parcheggiati, senza toglierci le scarpe, ci siamo addormentati. Provvistando 3 futuri più probabili, voglio solo futuri inverosimili. E non avere mai le mani fredde, e non finire mai le sigarette. E proteggimi dai lacrimogeni e dalle canzoni inutili. E proteggimi le sopracciglia dai manganelli e nello scrosciare delle piogge acide. Portami a bere dalle pozzanghere, portami a bere dalle pozzanghere, portami a bere dalle pozzanghere, portami a bere dalle pozzanghere, portami a bere dalle pozzanghere, portami a bere dalle pozzanghere. Sì, sì, proprio tu stai cercando una canzone allegra da mettere? Magari mentre sei davanti al mare con la tua fidanzata, sì, sì, una canzone allegra. Bene, e chiama Francesco Zago, detto Checco, a tuo servizio, saprà saprà modificare le tue playlist in modo da renderle strazianti, tristi. Dai. Vabbè, ok, dai, si è offeso. Invece, per chi non ha di queste esigenze, sabato 3 dicembre a Rivolta c'è il signor Vasco Brondi con tutti Vasco gli Brondi, altri, non Vasco Rossi. Tutti gli altri della Tempesta Dischi. Vabbè, continuiamo, questo non c'entrava molto. E beh, insomma, la tennis l'hai descritta, un po' la situazione anche. Tu invece lì che ci fai? Uno stage, ovvero tu studi scienze diplomatiche, no? Sì. Sì, qui sto facendo uno stage allo European Public Law Organization, che si trova purtroppo, no, anzi uno aspetta, dei punti... aspetta, ripeti per favore. Cosa? Dov'è che stai facendo lo stage? European Public Law Organization. Ah, okay. European Public Law Organization. Yes. Okay. Yes, of course. L'ufficio centrale si trova ad Atene, però ad Atene sono praticamente tutti, tra virgolette, capi. E invece l'altro ufficio, quello delle operation, quello operativo, si trova appunto a Legrena, che è vicino a Caposugno, dove mi trovo io, dove fanno anche gli stage i ragazzi e quant'altro. E nel quotidiano, nel concreto, di cosa ti occupi? Allora, nel concreto, siccome io parlo anche spagnolo, mi hanno messo ad assistere il ragazzo che si occupa di fare dei progetti in America Latina. Ah, ok. Quindi, sì, l'ho aiutato a cercare progetti, nuovi partner nel posto. Adesso per esempio stavo lavorando su un progetto in Honduras e poi su un altro in Ecuador. Quindi sono progetti di sviluppo o di cooperazione? Sì, quello che abbiamo trovato noi era sui diritti umani. Ah, ho capito. E dicevi che te lo sei trovata da sola questo stage? Cioè, come hai fatto? Sì. Come si fa a trovare uno stage in Europa? Su Google ci sono alcuni siti dove puoi trovare delle offerte tipo Relief Web oppure Euro Bruxelles, adesso non mi ricordo perché l'ho salvato tra i preferiti ma non mi ricordo il nome di tutto. Oppure altrimenti cerchi a caso, non so, sul sito dell'ONU o dell'Unione Europea, agenzie dell'Unione Europea, cerchi finché qualcuno non ti risponde. Quindi diciamo trovi l'organizzazione, dopodiché questa organizzazione proponi in qualche modo o chiedi se vogliono, se cercano stagisti? Sì, o altrimenti qualcuno anche mette l'annuncio, cerchiamo uno stagista in questo periodo, mandateci il curriculum. Certo. Ti certo. Ascolta, da come l'hai detta, cioè ad Atene ci stanno un po' i capi, eccetera, mentre noi stagisti o comunque la parte operativa sta a Legrena, deve essere proprio sto gran posto Legrena, o sbaglio? No, non è un bel posto. Ah, ecco. Niente, c'è veramente, ci sono per esempio due mini market e una, panetteria. Però per fare la spesa devi prendere il bus o la macchina e andare fino a Lavre o a Naviso, 10-15 minuti di auto. Stai facendo il conto alla rovescia per quando torni? Sì. Sì. Non l'avevamo capito. No, almeno, cioè, come bilancio l'esperienza ti sembra positivo o negativo? Sinceramente, come è stata sincera fino adesso? Dai, negativo, ok, taglio corto io. Tutto fa brodo, dai. Sì, ecco, ok. Think positive. Sono felice, dai, di essere venuta. Ma sai... Cosa? Se non fossi venuta qui non sarei andata a Cipro. Penso che a Cipro sarà più interessante andare. Ok. Bene. E com'è che è stato il legame con Cipro? Cioè, com'è che da questo stage passi a questo periodo di breve ricerca a Cipro? Perché io praticamente scriverò la mia tesi specialistica sulla questione di Cipro. Ah, ok. Gli aerei dalla Grecia non sono molto costosi per andare a Cipro e allora ho ridotto di un mese il mio stage qui e con gli stessi soldi che risparmio stando qua, comunque la residenza la pago e mangiare tutto lo pago, riesco ad andare a Cipro e farmi 10 giorni lì di ricerca tesi. Ho capito. Bene, dai, qui siamo in chiusura. Non le chiediamo un luogo preferito. Infatti non glielo chiediamo, okay, probabilmente non c'è un luogo preferito a Legrena. Mini market. Vi do invece due contatti. In FM, come sempre, sul 102.200 di Radio San Donà. Tu che sei laggiù, Greta, invece, puoi beccare la puntata... poi anche il podcast eccetera su www.radiosandona.it oppure sul nostro blog nowboardingradio.wordpress.com. Il mi piace mi sembra che tu l'abbia già messo sulla pagina Facebook Nowboarding Radio. Infine la mail è nowboardingradio@gmail.com. bravo Checco. Grazie. Prego, siamo due deficienti. Grazie. siamo in chiusura. E Greta, preparati per Nowboarding Cipro, perché non c'è due senza tre, e quindi dovremo fare per forza un'altra puntata con te. E poi Guatemala, Comunque devo dire che qui in Grecia però si mangia benissimo. Ah, ecco, cioè ci salviamo sempre, anche in Italia, no? Fa tutto un po' così, però si mangia bene. Si salva sempre così. Ecco, una piccola raccomandazione: non mangiare troppo pesante, sennò poi con la carta igienica è un casino. Ci vediamo. Che forte, Checco. Ciao Greta. Ciao, grazie ancora. Grazie. Chiudiamo con Loop, un progetto sempre greco di Stelios Romaliadis, disco Meadow Rituals appena uscito. La canzone è Horse Halt. E noi ci vediamo al prossimo mercoledì. Ciao a tutti. Ciao. Past the pine woods of the dark sings a lonely meadowlark, four stars racing through the sky in a line like flying geese. Black horse, lift your head up high, feel the time is drawing nigh. When meadowlark has sung to end, your run will make amends. Goes your kin, the goat carrying